edizione. Musica trionfale, le 6:14 minuti, comincia prima edizione. Buona giornata ancora da Anna Migliorati. Cominciamo con questa musica incombente perché parliamo di televisione per una mattina, però non lo zapping dalla TV di ieri sera, ma lo zapping in qualche modo sulla TV di domani sera. Parliamo di televisione, ritorna da domani su Rai 3 Ulisse, il piacere della scoperta, 8 puntate di viaggi nel tempo e nello spazio insieme ad Alberto Angela. Allora un piccolo assaggio al microfono di Marta Cagnola. La prima puntata sarà un viaggio a Roma, ci mancava questo grande affresco della cristianità a Roma, sarà una puntata dedicata alle catacombe, alle basiliche, a tutte quelle curiosità che hanno fatto Roma cristiana, cioè come mai è diventata la capitale della cristianità e anche quali sono i luoghi noti ma soprattutto meno noti, magari ricchi di fascino, di storie da raccontare. Siamo riusciti a vedere e a filmare cose che anche noi ci hanno sorpreso. Un piccolo assaggio per prima edizione, subito dopo le notizie sul traffico, le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. E allora vediamo un po' quali sono i titoli dei quotidiani che troverete in edicola questo venerdì 9 marzo. Naturalmente aperture dedicate a quanto accaduto in Nigeria, dove ve l'abbiamo raccontato anche poco fa. C'è stato un blitz delle teste di cuoio britanniche che cercavano di liberare gli ostaggi in mano ad Al-Qaeda in Nigeria. Un blitz che però è finito male, ci sono state due vittime, uno è un cittadino britannico e l'altro però è un cittadino italiano, l'ingegnere Franco La Molinara. In tutta questa vicenda c'è anche un'implicazione diplomatica e politica molto pesante, perché Londra ha deciso il blitz senza informare Roma, pur sapendo che sarebbe stato coinvolto anche l'ingegnere italiano. Roma è stata avvisata quando tutto è avvenuto e quindi quando l'ostaggio italiano era già stato ucciso, e quindi ci saranno anche pesanti ripercussioni diplomatiche e politiche quest'oggi. La Repubblica: Nigeria, ucciso ostaggio italiano, fallisce il blitz inglese, Monti avvertito da Cameron solo a cose fatte. L'ingegnere La Molinara era stato rapito da Al-Qaeda, morto anche il prigioniero britannico, il governo chiede spiegazioni a Londra. L'immagine dei due ostaggi in un video del 3 agosto 2011 sulla prima pagina della Repubblica, questa è la sintesi di quanto accaduto. La Stampa: Nigeria, ucciso ostaggio italiano, ucciso ostaggio italiano, Nigeria fallisce il blitz inglese anche per il Messaggero. Il Corriere della Sera: così è morto l'ostaggio italiano, l'ira di Palazzo Chigi. Ci sono anche naturalmente i commenti su quanto accaduto, soprattutto per quanto riguarda il fronte diplomatico, commenti non certo leggeri questa mattina. Lucia Annunziata scrive sulla Stampa: il peso che ci manca nel mondo, l'Italia che sta faticosamente risalendo il pozzo della mancanza di credibilità in materie economiche, viene lasciata amaramente sola proprio dall'Europa in due gravissime crisi internazionali in cui si è ritrovata intrappolata. Una appunto è questa, l'altra è quella dei marò italiani in India. Stesso tenore di commenti anche per quanto riguarda il Corriere della Sera, dove scrive Antonio Puripurini: inaccettabile schiaffo e le scuse non bastano, c'è da rimanere increduli di fronte al tragico episodio avvenuto in Nigeria. Il governo italiano non era stato messo al corrente dell'intenzione di Londra di effettuare un blitz così devastante. Monti è stato informato da una telefonata di scuse, una conversazione telefonica che certo non basta. E poi a fianco la notizia proprio sul Corriere della Sera per quanto riguarda l'altra vicenda internazionale, dicevamo quella dei marò. Oggi ci sarà il vertice dei ministri degli esteri europei. E allora, passo di Bruxelles con l'India, scrive il Corriere della Sera, per la questione dei due marò italiani. Giulio Terzi oggi incontrerà la responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. Dovrebbero rendere pubbliche le rispettive posizioni, ma l'Italia potrebbe chiedere un intervento più determinato. E di certo il peso internazionale dell'Italia in queste vicende, come dicevamo aprendo prima edizione, sarà il tema tema e il dibattito della giornata di oggi. Questo ad aprire la maggior parte dei quotidiani italiani. Il Sole 24 Ore punta l'attenzione su un'altra vicenda importante, di cui parleremo anche noi più avanti e di cui abbiamo parlato anche ieri, vale a dire l'attesa per il test di Atene, lo swap, vale a dire la conversione del debito greco anche per quanto riguarda i privati. Il Sole 24 Ore sul segno dell'ottimismo: Atene passa il test, via i nuovi bond, oltre 75% dei creditori aderisce. C'è da dire però che i dati definitivi, anche quelli si sapranno solo questa mattina alle 8 ora di Atene, vale a dire attorno poco prima delle 7 ora italiana. Cercheremo anche quelli di darveli in diretta o comunque di darvi qualche anticipazione con Vittorio Darold, che firma quest'oggi il pezzo sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, che dicevamo apre così: Atene passa il test, via i nuovi bond. La notizia la trovate in grande evidenza naturalmente anche su tutti gli altri quotidiani, e probabilmente sarebbe stata l'apertura per tutti se oggi non ci fosse stata la vicenda dello stagio italiano. La Repubblica: la Grecia è salva, borsa in festa, lo spread sotto i 300 punti, Grecia salva anche per La Stampa, Grecia in salvo per Il Messaggero, e Atene salva, il sollievo, i conti per Roma, il Corriere della Sera. Li trovate un po' dappertutto. Altri temi sulla prima pagina dei quotidiani. Allora torniamo ancora sul Repubblica, taglio centrale, dedicato invece un po' per tutti i quotidiani a quella che è la notizia politica di queste ore. Il PDL attacca, Riccardi se ne vada, mozione di sfiducia fermata da 46 senatori, il Premier stop alle polemiche. Un'intervista sulla Repubblica di quest'oggi al segretario del PD Bersani, che dice: non escludo un bis del professore e un'alleanza con i democratici. Stessa scelta un po' anche per gli altri quotidiani: 46 senatori vogliono sfiduciare Riccardi, anche per il Corriere della Sera. Abbiamo tempo ancora per qualche segnalazione prima di parlare d'altro. Allora andiamo sul Messaggero. Ci sono due notizie: una riguarda un nuovo blitz della Guardia di Finanza, il fisco con nuovi controlli nei locali di Roma. Sono scattati ieri sera nei locali della Movida Romana. Naturalmente anche per questi si aspetteranno i dati. Altra notizia sempre da Il Messaggero: la vicenda Lusi, con un buco da 20 milioni di euro, e lui che dice: se parlo io salta tutto. Il tesoriere della Margherita, che ricorderete si è intascato i 20 milioni di euro, ma che a quanto pare avrebbe altro ancora da raccontare. Anche questo lo trovate un po' su tutti i quotidiani. Il Messaggero questa mattina sceglie di dargli grande evidenza. Qualche segnalazione ancora ve la leggo dal Sole 24 Ore, che a fondo pagina sentite un po' cosa racconta: la produttività paga bonus ai 90.000 addetti in Germania. Che è successo? Che i dipendenti della Volkswagen, che va bene a differenza di molte altre aziende in questo periodo di crisi, è stato deciso di dare un premio, 7.500 euro per la produttività, grazie alle eccellenti prestazioni nel 2011, un premio di produzione ai 90.000 dipendenti, 7.500 euro. E poi lo sapevate che c'è in corso una terribile tempesta solare? Allora le immagini sono davvero bellissime, al di là di quello che sta succedendo. Sul Corriere della Sera di questa mattina: l'attività più intensa da 5 anni per il sole, i segreti del sole in tempesta. Sono davvero immagini affascinanti, sono eruzioni solari fotografate dai satelliti. L'8 marzo 2012, ieri, il sole era completamente rosso, ma dovete vederle, veramente sono delle immagini meravigliose, se non fosse che hanno però anche delle ripercussioni che potrebbero anche essere davvero pesanti, perché tra oggi e domani e comunque nei prossimi giorni, attenzione, ci sono rischi di blackout soprattutto per le apparecchiature tecnologiche, e questo potrebbe essere colpa appunto di questa tempesta solare. Solo un piccolo sguardo a quelle che sono le notizie oggi sui quotidiani. Come sempre vi aspetta Alessandro Milan per maggiori approfondimenti. Con Prima Edizione invece 6:24 minuti e 45 secondi è il tempo di voltare pagina. E vi riportiamo indietro di un anno. La zona più colpita è la provincia di Miyagi, sulla cui costa si è materializzato uno tsunami di 10 metri che ha spazzato migliaia auto e abitazioni. Milioni di case sono senza corrente elettrica. Difficile per ora fare un bilancio dei danni, ci sono notizie di almeno 5 vittime, ma il bilancio è destinato sicuramente ad aumentare. E bilancio che poi inesorabilmente aumentò. Domenica sarà infatti un anno dal terremoto in Giappone, seguito poi da tutti i problemi alla centrale nucleare di Fukushima. Allora io saluto da Tokyo Stefano Carrer, buongiorno. Sì, buongiorno. Un anno fa ce lo raccontavi così. Tu hai seguito per noi nell'accaduto, poi qualche giorno fa sei tornato proprio in quelle zone. Allora la domanda è inevitabile. Un anno dopo com'è Fukushima? E appunto bisogna distinguere un anno dopo, quando vado in Giappone un anno dopo, anzitutto la zona che è ancora proibita, dalla quale la popolazione è stata evacuata, che riguarda un raggio di 20 km intorno alla centrale con delle estensioni verso nord-ovest, e qua non è cambiato nulla rispetto a quando la popolazione è stata evacuata. Non è cambiato nulla se non in peggio, nel senso che ci sono questi villaggi fantasma completamente abbandonati, e quello che è cambiato semmai è il degrado, cioè perché è incredibile come quanto velocemente dei paesi, delle strutture, delle abitazioni che sono abbandonate dalla popolazione si degradano. Queste sono città fantasma e qua ancora per molto tempo sicuramente non sarà nessuna evoluzione, neanche la rimozione dei detriti non è stata ancora neanche iniziata, e quindi in questo senso la situazione è veramente ancora drammatica. Per quanto riguarda invece le aree colpite dallo tsunami, ma più distanti, insomma, che c'è stata, diciamo, lo tsunami ha colpito un'area di costiera di centinaia di chilometri. Per intendersi, a noi impressionò moltissimo l'anno scorso l'immagine, un po' tutti la ricorderanno, di quell'autostrada costruita in pochi giorni. In queste aree è andata così un po' per tutto o è stata un'eccezione? No, diciamo è stata un'eccezione, nel senso che ancora oggi sono in corso i lavori per il ripristino delle infrastrutture. Quindi insomma quell'immagine in cui dicemmo sì, tutto sarà ricostruito in Giappone in pochissimo, poi in realtà non è stata così facile. No, beh, quella è stata un po' un'immagine, diciamo, da pubbliche relazioni, insomma, che però, diciamo, devo dire che il ripristino delle infrastrutture delle stradali è piuttosto avanti, è quasi completato. Le infrastrutture ferroviarie, c'è ancora qualche linea che non è stata riattivata. La cosa che colpisce di più è che invece la ricostruzione vera e propria delle abitazioni, dei nuclei abitati, è ancora ferma al palo. Insomma, questo non deve particolarmente stupire, secondo me, perché diciamo molte comunità locali ancora non hanno deciso, non sono giunti a un consenso se costruire nello stesso punto di prima, cioè vicino al mare, in una zona molto pericolosa, o spostarsi. Insomma, un dibattito che per noi ha riguardato l'Aquila e che tutto sommato alla fine non è così, anche se insomma parliamo solo di un anno, ma anche in Giappone le cose non sono così semplici. Abbiamo ancora tempo per una battuta, Stefano. Sul fronte nucleare oggi i livelli come sono? Si mangiano ortaggi in quella zona o c'è un allarmante? Le preoccupazioni riguardano soprattutto le contaminazioni alimentari, però per esempio proprio oggi a Fukushima città Greenpeace ancora ha convocato i media, e anch'io ho parlato per telefono con loro e con alcuni abitanti, e Greenpeace sostiene che persino in Fukushima città, che è a 60 km dalla centrale, in alcuni quartieri i livelli di radioattività sono ancora troppo alti. Quindi diciamo per il mondo la preoccupazione che continuerà sarà soprattutto quella della possibile contaminazione degli alimenti. Degli alimenti che comunque continuano ad arrivare da quelle zone. Grazie, è passato un anno, sarà passato un anno domenica, continueremo a parlarne ancora a Radio 24. Intanto un primo assaggio, grazie da Tokyo Stefano Carrer. Buongiorno a tutti. Prima edizione. Con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Il 9 marzo Italia in controluce alle 6:30 tutti i giorni, tutte le mattine, racconto dell'Italia in diretta. 10 anni fa, dunque, 19 marzo 2002, le BR assassinavano Marco Biagi. Italia in controluce ha dedicato alla memoria del professore l'intera settimana di programmazione. Per un bilancio e una riflessione finale, Cristina Carpinelli ha intervistato il giornalista e scrittore Giovanni Bianconi. Ma io sinceramente non credo che ci fosse un clima che ha portato all'omicidio di Marco Biagi. nel senso che il clima è quello degli anni 70, che ha portato non agli omicidi ma allo sviluppo delle Brigate Rosse e quindi agli omicidi, e quello è un clima, se qualcuno lo vuole definire preinsurrezionale, comunque di grande fermento politico e anche per certi versi sovversivo, che ha portato a quella stagione. Il clima di fine anni 90, inizio anni 2000, quando ci sono stati questo ritorno delle Brigate Rosse, io sinceramente non credo che sia un clima di quel genere. Immagino che il ministro Sacconi si riferisca piuttosto al clima di contestazione intorno alle tesi di Marco Biagi. Ci furono molte polemiche perché Marco Biagi, diciamo, nell'ultima sua fase era osteggiato da una parte del sindacato, in particolare dalla CGIL, per quello che lui proponeva. Però collegare quelle discussioni all'omicidio di Marco Biagi mi pare veramente eccessivo, ma non perché lo penso io, ma perché lo pensano i brigatisti che l'hanno ucciso. Cioè, non è che loro hanno scelto Biagi perché la CGIL lo criticava o perché c'era un clima di contestazione anche nei movimenti estremisti sindacali su quella cosa. L'avrebbero probabilmente ucciso lo stesso, così come avevano fatto con il professor D'Antona, che non era criticato dai sindacati, ma era anzi il consigliere del ministro del lavoro Bassolino del governo D'Alema, insomma. Quindi credo che ci sia più una dinamica interna ai movimenti eversivi, che in Italia esistono ancora, perché le Brigate Rosse, nonostante tra l'altro il gruppo che abbia ucciso D'Antona Biagi sia stato smantellato, ma però in carcere queste persone continuano a rivendicare la loro militanza e la loro linea politica, se così la vogliamo chiamare. Quindi l'Italia è semmai un paese dove le organizzazioni eversive hanno avuto, per tante ragioni che adesso non c'è il tempo magari di analizzare, ma hanno avuto una longevità che non hanno avuto altrove. Ecco, questo ci può far portare al fatto che, a riflettere sul fatto che è sempre possibile che qualcuno si alzi una mattina e decida di rivendicare la propria continuità oggettiva con il patrimonio brigatista, così come scrissero nel primo volantino di rivendicazione dell'omicidio Biagi. D'Antona, scusami. E quello Biagi poi ne era la conseguenza. Ma non perché c'è un clima particolare, perché c'è una situazione italiana, storica, particolare. Era Italia in controluce, ci sentiamo alle 13.30 su Radio 24. E grazie come sempre, 6:40 minuti esatti in questo istante, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di Prima Edizione. Beh, questa mattina naturalmente parliamo di quello che è il tema forte di queste ore, quello che si è saputo ieri sera, vale a dire che c'è stato un blitz britannico in Nigeria per liberare ostaggi nelle mani di Al-Qaeda. I due ostaggi che si volevano liberare però sono stati uccisi, uno un cittadino britannico, uno un cittadino italiano, e il problema anche diplomatico in queste ore è che Roma non era stata avvisata, non eravamo stati avvisati del blitz che i britannici avevano intenzione di fare. Allora, cominciamo innanzitutto raccontandovi quello che è avvenuto nelle ultime ore, e lo facciamo con Katia Caramelli. Buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. I due ostaggi di cui parlavi tu, l'italiano Franco La Molinara e Christopher McManus, erano prigionieri dal 12 maggio del 2011, da quando erano stati prelevati dalla guest house in cui vivevano da gruppi islamici radicali. Dal momento del sequestro la vicenda era sempre stata seguita congiuntamente dalle autorità britanniche ed italiane. Lo scorso 4 agosto i sequestratori avevano anche inviato un video nel quale i due ostaggi affermavano di essere nelle mani di uomini di Al-Qaeda. Nelle ultime ore però c'è stata un'accelerazione. Chris McManus, a British citizen, was taken hostage by terrorists. Secondo quanto riferito dal premier britannico Cameron, in base ad informazioni in mano agli analisti, c'era il rischio imminente di morte per i due ostaggi. Da qui allora la decisione delle autorità nigeriane di intervenire con un blitz delle teste di cuoio, supportato da Londra, ma senza, come dicevi tu, preavvisare l'Italia. Il premier Mario Monti sarebbe stato informato quindi solo ad operazione avvenuta. E oggi, per fare il punto su quanto accaduto, Monti ha convocato il Comitato Interministeriale per la Sicurezza e ovviamente si chiedono chiarimenti a Londra. Si vuole una spiegazione chiara. Da parte sua, il premier Cameron ha espresso sì il rammarico per l'accaduto, ma nessuna scusa ufficiale. Ancora poco chiara la dinamica del blitz. Secondo testimoni, il nascondiglio dove i due ostaggi erano tenuti prigionieri a Sokoto, nel nord-ovest del paese, sarebbe stato circondato dalle forze speciali. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco e i due sarebbero morti vittime del fuoco incrociato. Però il Daily Telegraph ipotizza addirittura che i due ostaggi potrebbero essere stati uccisi dalle teste di cuoio, quindi mentre secondo Cameron sarebbero stati uccisi dai sequestratori prima ancora che ci fosse l'irruzione. Quindi c'è ancora molta incertezza sulla dinamica di quanto accaduto. Ma chi era il nostro connazionale Franco La Molinara? Sentiamo Adriana Fracchia. Franco La Molinara era un ingegnere edile, aveva 48 anni, piemontese, viveva a Gattinara in provincia di Vercelli con la famiglia composta dalla moglie Anna, impegnata nell'Accademia dello Sport, e da due figli, uno di 18 e una di 16 anni. La Molinara si trovava in Nigeria, dove da una decina d'anni lavorava per la società di costruzioni Stabilini Visinoni Limited, fondata da italiani ma con base appunto in Nigeria, dove opera da ben 39 anni, ed era impegnato nella costruzione di un edificio della Banca Centrale a Birnin Kebbi, capitale dello stato di Kebbi, nell'estremo nord-ovest del paese africano, al confine con il Niger. In quest'area, dove l'ingegnere italiano è stato rapito il 12 maggio scorso, opera l'ACMI, il braccio maghrebino di Al-Qaeda, che fa del sequestro di occidentali una delle maggiori fonti di reddito e di sopravvivenza. Nonostante i suoi lunghi periodi di assenza, La Molinara, che appena i cantieri africani glielo permettevano, prendeva subito un aereo per l'Italia, era molto conosciuto e stimato nel suo paese. Nessuno si aspettava questo tragico epilogo e oggi a Gattinara è stato proclamato il lutto cittadino. Grazie dunque Adriana Fracchia. Katia Caramelli, continuerai naturalmente ad aggiornarci. Sì, naturalmente l'appuntamento è nei giornali radio, il prossimo tra pochissimo per gli ultimi aggiornamenti. Grazie, però questi fatti, e come sentivamo, resta la questione forte politica del fatto che Roma non sia stata avvisata. Saluto anche Marco Giacconi, direttore Centro Militare Studi Strategici di Roma, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, diamo subito le informazioni sul traffico, così poi abbiamo tempo per parlarne un po' più ampiamente e poi cerchiamo di capire perché Roma non è stata avvisata, tra poco. Prima edizione. Con Marco Giacconi, direttore Centro Militare Studi Strategici di Roma. Abbiamo ripercorso i fatti di quanto accaduto in Nigeria e di quelle che sono anche le questioni diplomatiche aperte. Giacconi, secondo lei perché questa decisione britannica di intervenire senza informarci? In fin dei conti siamo un partner consolidato di Londra. Non solo siamo un partner consolidato, ma siamo anche un partner dell'Alleanza Atlantica. E se non mi ricordo male, le procedure anche di diretta operatività dei corpi speciali, anche dei corpi collegati direttamente ai servizi di sicurezza, hanno un livello di interazione politica tra capi di governo, talvolta anche tra capi di Stato, per cui non so se si sia creato un problema anche riguardo alle procedure della NATO, ma questo lo vedranno i tecnici, perché queste ovviamente sono cose che hanno un rilievo di segretezza. Insomma, oltre che problemi diplomatici tra due capitali, potrebbero esserci anche all'interno della NATO, lei dice. E perché secondo lei i britannici hanno fatto questa scelta? Che timori avevano di informarci? Non avevano timori di informarci, secondo me. Diciamo che Gran Bretagna, Francia, per certi aspetti la stessa Germania, che pure non ha partecipato direttamente alle operazioni in Libia, non ritengono più l'Italia una media potenza, come era la vecchia idea della guerra fredda, e ci ritengono una piccola potenza. Siamo passati in Serie B? Come la Serbia e il Portogallo. Siamo passati in Serie B? Siamo passati in Serie B. È un po' come fosse, non so, la decisione di Standard & Poor's di declassarci, cioè la Libia è stata in qualche modo una svolta, il nostro comportamento sul fronte libico ci ha portato in Serie B rispetto alle grandi... il nostro comportamento sul fronte libico è stato ottimo, soprattutto da parte dei servizi, ma è dell'aviazione che ha fatto un'operazione straordinaria. Sì, non comportamento sul palco, il comportamento politico, ecco. Il problema è il comportamento politico, certo. Quindi questo è il senso dell'operazione. Non so se i britannici, che si ritengono autonomi rispetto a molte delle scelte NATO, abbiano detto tranquillamente questi sono corpi speciali, il SAS sono delle nostre teste di cuoio, lo Special Air Service lo comandiamo noi, non andiamo a dire. Se poi va bene, Roma ci ringrazierà ed è chiusa così. Abbiamo in qualche modo uno spread, uso ovviamente in termine improprio, da ricostruire anche su questo fronte? Ne abbiamo molti di spread geopolitici e strategici da ricostruire. Abbiamo lo spread della questione indiana, che è stata letta come questione di diritto internazionale, mentre è una questione di strategia e di politica estera nel senso pieno del termine. E abbiamo bisogno dell'Europa perché non abbiamo ad imporci sul tavolo. Assolutamente. Poi abbiamo il problema del Nord Africa. Abbiamo partecipato alle primavere arabe, ma siamo di fatto stati espulsi dal dividendo anche economico delle primavere arabe, salvo una quota Eni, che quella comunque sarebbe stata trattata con chiunque. E quindi siamo ormai in una situazione strategica, ma credo che sul piano proprio strategico e geopolitico lo spread italiano sia ancora maggiore di quello di quanto non accada in ambito finanziario. E questo è amaro, soprattutto quando poi succedono cose di questo tipo, per cui viene ucciso un nostro ostaggio senza che nemmeno lo sapessimo. Ricordiamo che nel frattempo c'è anche la vicenda di Rossella Urro, che resta completamente aperta, e vedremo anche su quello che succederà. Torneremo a parlarne naturalmente nel corso della mattinata. Grazie intanto per essere stato con noi a quest'ora del mattino, Marco Grazie Giacconi, direttore Centro Militare Studi Strategici di Roma. Buona giornata. Resta veramente pochissimo tempo, però non potevamo mancare all'appuntamento con l'altro spread, veramente quello economico. Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. L'appuntamento è stato ieri sera, quando si è chiuso il cosiddetto swap per i privati e per i titoli greci. Tra pochissimo arriveranno i risultati. Vittorio, riesce a darci qualche anticipazione? Sì, le ultime notizie sono molto positive, addirittura si parla di 90-95% dell'adesione a questo swap, questo scambio che ricordiamo è il più grande della storia, sono 357 miliardi di debito, 5 volte quello dell'Argentina. L'Argentina è ancora fuori, dopo 10 anni, ancora fuori dai mercati, cioè non ha possibilità di andare nei mercati internazionali a chiedere prestiti. Quindi la Grecia sta giocando una partita molto importante, e naturalmente l'euro, perché di questo si tratta, cioè delle monete che abbiamo in tasca noi europei. La situazione quindi è piuttosto positiva, aspettiamo le 7 ora nostra, le 8 ora di Atene per avere i dati definitivi. Mancano meno di 10 minuti, ecco. Esattamente, quindi se le CAC, quindi se arrivano a questo, non dovrebbero applicare le famose clausole di azione collettiva, che sono quelle che potrebbero far aprire il problema dei CDS, cioè di queste assicurazioni. Anche qui Atene rappresenta un po' il coacervo di tutte le problematiche della finanza, diciamo, deregolamentata e della mancanza di una governance europea che ha fatto ritardare gli aiuti. Oggi si riunisce l'Eurogruppo a Bruxelles in teleconferenza e lì decideranno di dare o meno il secondo piano il secondo piano di aiuti. Però dovrebbe andare bene. Mancano meno di 10 minuti, ti ritroviamo in diretta con GR24, così ci dai gli ultimissimi dati. Grazie a Vittorio Darold, lo ritroviamo tra pochissimo, anche noi ci risentiamo tra pochissimo, grazie a Peter Bescapè, grazie a Viola Bottoni, tra poco le ultime notizie di GR24, questi intanto i temi della mattinata, come sempre a prima edizione, buona giornata, buon venerdì da Anna Migliorati.